9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 14 di settembre. Allora scende lo spread, tutto sembra andare bene. Anche la Banca Centrale Americana ieri ha varato un nuovo programma di acquisto di titoli. Eppure il calo dei consumi in questo anno e il calo del PIL cumulato dall'inizio della crisi, siamo a più di 7 punti di PIL persi. E il più grave oramai, dice il Centro Studi Confindustria, persino paragonabili agli effetti che ha avuto la prima guerra mondiale sull'Italia. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. E allora raccontiamo ancora, riprendiamo prima di andare al tema del giorno, una lettera al giorno dal sito Disperati Mai, perché ripeto hanno ripreso ad arrivare e allora il mio dovere è quello di pescarne ogni tanto qualcuna e farvela leggere, farvi riflettere. Oggi ho preso quella di Silvia, ve la leggo. Racconto la mia storia: da 9 mesi non ho un lavoro perché ho dovuto chiudere il mio negozio aperto 7 anni prima, ho una figlia totalmente a carico e a gennaio, dopo 7 anni e sinceramente pensavo di non tornarci più, sono andata a iscrivermi all'ufficio di collocamento della mia città. Ero l'unica italiana. Ho scoperto che chi chiude un'attività non ha diritti. Lei ha chiuso, non è stata licenziata, mi ha detto l'impiegata. Il figlio a carico conta solo se esce un'offerta lavorativa di un ente pubblico. E allora viviamo con mia madre, ci dà 5 euro ogni giorno, 3 giorni per fare la spesa. Oggi abbiamo acceso il forno e per fare il dolce abbiamo finito lo zucchero. Mia madre ha urlato e spaccato la zuccheriera. Io e mio figlio ci guardavamo senza dire nulla. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ieri mi ha chiamato una mia amica e mi ha detto che farà parte anche lei dei disoccupati insieme a me. Chiudono altri 3 negozi, 27 persone a casa. Stamattina mi chiama una finanziaria dicendo che non ho pagato 2 rate. Hanno ragione, ma dove prendo i soldi? Ho come garante mia madre, che rischia il pignoramento della pensione. E dal 28 giugno che mando fax e mail ad Equitalia per chiedere la mia situazione e nessuno risponde. Ho solo più la macchina intestata a me, che non uso nemmeno perché l'assicurazione è scaduta, ma è un bene indispensabile per trovare un lavoro. E ho infine anche un residuo finanziamento con una banca che non sto pagando. Non so come fare, soprattutto a mia figlia. Che cosa dico? Saluti a tutti e complimenti per il lavoro che fate, Silvia. Allora, lettere così ce ne sono ovviamente tante, tante, tante, e di fronte a queste... a questa condizione e nel mentre da una parte il premier Monti scopre che lo statuto del lavoratore certo non ha contribuito molto alla produttività italiana, naturalmente la CGIL insorge, però a me sembra una banale verità e un classico feticcio lo statuto dei lavoratori. Mi ha stupito persino che Monti ci sia andato sopra, evidentemente sta considerando davvero l'ipotesi della politica. Dall'altra, la grande novità di ieri è stato finalmente il discorso di lancio della candidatura alle primarie, anzi no, al governo del paese di Renzi. A me sembra che il tentativo di Renzi sia coraggiosamente da guardare con simpatia, perché affronta il tema del rinnovamento deciso nel suo partito di una leadership che anche in quel partito, come in tutti gli altri, è ferma da decenni. Sono praticamente tutti così, e anche Berlusconi è così, l'UDC è così, ma la differenza è che lui è un rinnovatore interno, picchia i pugni. Sui contenuti c'è ancora molta chiarezza da fare, ma il nervosismo con cui tutti all'interno del PD reagiscono sotto gli slogan niente idee, dice Fassina, responsabile economico, testimonia che secondo me se riuscirà a portare, e vedremo con che regole, perché le regole il PD dovrà stabilire in un'assemblea nazionale a ottobre, ma se riuscirà a portare alle primarie Renzi a fine novembre più di 2 milioni di italiani, e quindi a bypassare il blocco compatto dei militanti del partito che gli sono, dei dirigenti che gli sono avversi, secondo me c'è il rischio davvero che le vinca, e se le vinca diventa la vera novità della politica italiana, perché nulla sarebbe più come prima, il PD si spaccherebbe di sicuro, e sarebbe, ripeto, la vera novità in vista delle politiche. In assenza di questo, nell'improbabilità di questo, vi dovete beccare come novità quelli come noi di www.fermareildeclino.it. Io mi sto guardando dal parlarne tutti i giorni di qua, per non farmi, come giusto, dire da voi che sono uno di parte, però approfitto per parlare di Renzi, per confrontare la chiarezza delle nostre fin troppo chiare, forse un po' elitarie, proposte su debito, spesa e rilancio della crescita. Detto tutto questo, la puntata di oggi noi la dedichiamo a tre cose precise, una di cui affronteremo immediatamente il tema, perché serve a ricordarvi qual è lo sfondo vero di questi 18 anni di eredità politica, e cioè la crescita della spesa pubblica nei diversi comparti. Io ricordo che gratuitamente noi dell'Istituto Bruno Leoni vi abbiamo dotato di un contatore del debito pubblico che viene aggiornato ogni 3 secondi e che cresce incessantemente anche sotto questo governo Monti, anzi la media di quest'ultimo mese è di 157 milioni di aumento del debito pubblico al giorno, la trovate sul mio blog www.chicago-blog.it o sul sito del Bruno Leoni. Però un conto è vedere il debito pubblico come sale. Siamo a 1972 miliardi, ma altro conto è ricordare da dove partivamo 20 anni fa, a che punto siamo arrivati 10 anni fa e dove siamo adesso e quali sono i diversi comparti in cui questa spesa è aumentata. Questo sarà il primo focus della trasmissione, una decina di minuti per ricordarvi alcune idee, dopodiché passiamo al vero cuore della trasmissione, il come e il perché si debba rilanciare la crescita attraverso un intervento sul cuneo fiscale, se ne sta parlando in questi giorni, tenteremo di approfondire per capire si può o anzi si deve, risposta, si deve diminuire il cuneo contributivo per i giovani assunti, sì perché altrimenti c'è una generazione di dropout, ma sì anche, e questo sarà il terzo tema della trasmissione, perché c'è un riequilibrio da compiere su quanto noi tutti contribuiamo e continueremo a contribuire nel nostro arco vitale al finanziamento della spesa sanitaria e previdenziale, cioè al cuore del welfare, perché a differenza di quello che molti vi dicono, cioè ci sono state riforme in questi campi fin troppo pesanti, le procedure di rientro della spesa sanitaria coatta per le regioni, la pesantissima riforma che ha aumentato l'età pensionabile all'inizio di questo governo, e quindi anzi bisogna magari tornare indietro ma non fare ulteriori passi avanti, la verità vera è che i numeri ci dicono che non è così. E ci occuperemo di questi numeri, tenteremo di riflettere insieme a voi, e questa è un'altra ragione però per diminuire alcuni contributi ai giovani, cosa di cui c'è bisogno per rilanciare la crescita. Questi i tre punti, cominciamo immediatamente con Marco Stradiotto. Marco Stradiotto è un senatore del PD, è radicale, e ha rielaborato le cifre dell'Istat esattamente per farci capire quanto dal 1990 a oggi la spesa pubblica sia cresciuta, ed è cresciuta 3 volte più dell'inflazione. Allora, buongiorno innanzitutto a Stradiotto. Buongiorno, buona giornata. Allora, ricapitoliamo un secondo totale e maggiori comparti per vedere dove e come i signori dei partiti in questi 20 anni dicevano una cosa e ne hanno fatta una che è l'esatto opposto. Ma i dati sono emblematici, perché si parte da una spesa pubblica di 373 miliardi di euro del 1990 e si arriva ai 793 miliardi di 20 anni dopo. Ma la cosa che insomma è particolare, che ci deve ovviamente far comprendere dov'è il problema, è dove aumenta la spesa in modo particolare, cioè in quali comparti. C'è il comparto del previdenziale, cioè quello che spendono gli enti previdenziali, che viene triplicato, cioè con un aumento del 229%, e la spesa relativa agli enti sanitari che raddoppia, cioè con un aumento più che raddoppia, un aumento del 167%. Allora, noi stiamo parlando di una spesa per gli enti previdenziali che era di poco superiore ai 90 miliardi nel 1990. E arriviamo ai 299 nel 2010. Ecco, praticamente ai 300, sì. Siamo al 38% della spesa pubblica per previdenza, dove solo 220 milioni di euro, cioè ci sono circa 80 miliardi di euro che viceversa arrivano dallo Stato, perché sono tutte le pensioni sociali che ovviamente sono a carico della collettività e non sono legate alla contribuzione dei dipendenti, e quindi quel tipo di spesa, che sono 300 miliardi su 800, è la grande parte della spesa pubblica, e cresce in modo esponenziale, perché era nel 1990 il 24% della spesa e nel 2010 diventa il 38% del totale spesa pubblica. Allora, ricordatevi questo comparto, quello previdenziale, che aumenta del 230% praticamente tra il 90 e il 2010, perché tra poco ci dovremo tornare sopra ponendoci la domanda: ma è vero che con la riforma previdenziale ne abbiamo stoppato un andamento incrementale così sproporzionatamente diverso? Tenete conto che questi sono cifre fatte sul nominale, quindi tenete conto che nel nominale in 20 anni ci dovete mettere un po' più del 30% di anzi un po' più del 50%, perdonatemi, che è la quota di inflazione in 20 anni. Però, come vedete, visto che l'aumento è del 229-230%, anche fare un conto sul nominale, se dalla testa tenete separate poi la quota di aumento dovuto all'indice dei prezzi, sono comunque aumenti sproporzionati. Allora, per la sanità siamo invece a una spesa che passa dai 42 miliardi circa del 1990 ai quasi 114 del 2010, e anche qua abbiamo un aumento del 167%, che, come vedete, è multiplo di NN volte rispetto all'inflazione. Poi chi altro è nella graduatoria degli aumenti di spesa più incontrollati? Un pochi miliardi sono le province, però le province hanno avuto delle competenze in più in questi anni, per cui andrebbe depurato di questo dato, perché in realtà, stando al netto dei trasferimenti, risulterebbe che lo Stato in corso di questi anni ha diminuito la sua spesa, perché ha avuto un incremento di spesa solo del 38%, quindi meno dell'inflazione, ma in realtà è perché ha delegato alcune funzioni. Però il dato, se andiamo a vederlo per abitante, perché dobbiamo dirci che tra il 1990 e il 2010 cambiano anche gli abitanti, ci sono circa 6 milioni di abitanti in più, però se andiamo anche per abitante ci accorgiamo che la spesa complessiva per abitante nel 1990 era pari a 6.500 euro pro capite, e con un'entrata di 5.163 euro, quindi un disavanzo di un indebitamento annuo per ogni abitante di 1.400 euro. Andiamo nel 2010, la spesa è pari a 13.000 euro per abitante e l'entrata pari a 11.900 euro per abitante. Questo significa che, se facciamo finta che i cittadini siano i clienti dell'azienda pubblica amministrazione, ogni anno questa azienda per ogni cittadino perde 1.187 euro. Credo che così non possa continuare questo dato, perché inutile che ci lamentiamo che il debito aumenta, non può che aumentare se continuiamo ogni anno ad aumentare l'indebitamento. E infatti il debito pro capite anche lui è bel che è cresciuto ad onta degli impegni assunti a diminuire il debito pubblico con avanzi primari, cioè entrate superiori di 4-5 punti di PIL rispetto al totale della spesa, al netto di quello che si spende gli interessi. In questi 20 anni noi ci siamo giocati in realtà quasi 500 miliardi di avanzi primari realizzati nel frattempo spremendo i contribuenti, come ci siamo giocati i 200 miliardi di euro di proventi di privatizzazione negli anni 93-95, eravamo il paese che più privatizzava dopo la Gran Bretagna, come ci siamo giocati quasi 700 miliardi di minori interessi sul debito pubblico dovuti all'euro. Ricordatevelo, voi che siete in ascolto, quando vi dicono che l'euro è stata solo una fregatura all'Italia, vi raccontano palle, perché noi abbiamo quasi risparmiato per i soli minori tassi di interesse, pagavamo quasi 13 punti di PIL l'anno di tassi di interesse prima dell'euro, siamo scesi a meno di 5, la cosa poi è finita 2 anni fa quando è esplosa l'eurocrisi, ma per 8 anni questo è stato il bello sgravio, cioè 7 punti di PIL in meno per 8 anni, il che fa quasi 700 miliardi di minori interessi spesi da parte dell'Italia sul suo debito ingente accumulato. Se sommate i 700, i 500 e i 200 sono 1400 miliardi, quasi il PIL di un anno dell'Italia, che la lungimirante chiaroveggente politica di destra e di sinistra e dei tecnici susseguitasi al potere in questi 18 anni ha buttato nella finestra, ma mentre voi pagavate e mentre voi vi indebitavate di più e siete oggi indebitati di più. Allora io ringrazio questo esercizio di Marco Stradiotto del PD, componente radicale, che trovate sul suo sito se volete ulteriormente approfondire, e questa è la banale e amara e incontrovertibile verità di sintesi della politica economica pubblica di questi 18 anni. Chi vi racconta che è il nemico tedesco, che è il nemico la globalizzazione, che i nemici sono i banchieri, questa saccente verità di cui Brunetta, Tremonti eccetera oramai dimenticando di aver avuto un qualche ruolo rispetto a quello che chiedevano come promessa e realizzavano al governo, ricordategli che le cifre sono queste, ricordatele anche a quelli del PD che hanno governato, e sono cifre rispetto alle quali sì, i tecnici mettono una grande credibilità internazionale, però continuano a fare tasse anche loro e non ad affrontare il debito con cessioni dell'attivo pubblico. Allora, fine del primo punto, grazie a Stradiotto, e andiamo invece al secondo e al terzo, cioè come e perché abbattere il cuneo fiscale, di quanto è possibile farlo innanzitutto ai giovani, perché non ci sia un'intera generazione tagliata fuori dal mercato del lavoro, e però qual è la compatibilità di questa proposta, sulla quale altrimenti tutti batterebbero le mani dicendo che bello, meno cuneo fiscale. Però il Tesoro, quando lo ha parlato la Fornero 2 mesi fa, ha detto: ragazza mia, qui non ci sono i soldi. E allora in che quadro di compatibilità rispetto ai finanziamenti di un welfare di cui abbiamo visto il progresso di spesa tumultuoso negli anni alle nostre spalle, e rispetto alle recenti riforme che ci sono state, soprattutto quella previdenziale, e alle procedure coatte di rimessa in regola degli eccessi di debito che sono in atto in diverse regioni? Di questo parliamo con il nostro amico Fabio Pamolli. Il professor Pamolli è direttore dell'IMT, gli Alti Studi di Lucca, e presidente del CERM, cioè il Centro Studi sulla Competitività, Regolazioni e Mercati, che proprio su welfare e sanità in particolare aggiorna incessantemente banche dati anche comparate rispetto ai benchmark degli altri paesi. Buongiorno e grazie al professor Pamolli. Buongiorno. Allora, partiamo dalla proposta sul cuneo fiscale. Lei dice si dovrebbe e sarebbe compatibile con l'equilibrio del bilancio diminuire il cuneo contributivo per i giovani, in che proporzione? Nella proporzione di alcuni punti percentuali, idealmente si potrebbe pensare a una forchetta tra i 5 e i 7 punti percentuali. Una premessa per cercare di argomentare in modo ordinato su un punto che, se non trattato in modo come dire, minimamente strutturato, rischia di essere appunto una sorta di esortazione non fattibile. Allora, la premessa è che tutti siamo d'accordo nel dare un giudizio negativo sull'eccessivo peso del cuneo fiscale e contributivo, negativo sui livelli di occupazione, negativo sulla produttività del lavoro, negativo sui consumi. Noi abbiamo un livello del cuneo, una differenza tra costo del lavoro e retribuzione netta nelle tasche del lavoratore, che è di circa 47,6 punti percentuali, di cui 16% sono imposte, 7% contributi a carico del lavoratore, 24% contributi a carico dell'impresa. Qualcuno potrebbe dire: niente di grave, perché l'Italia non è il paese con il cuneo più alto. Ed è vero, il Belgio ha un cuneo a parte tutte le distorsioni nel mercato del lavoro belga e degli ammortizzatori sociali belgi che stanno rivedendo, alcuni o più alto nell'area OCSE, attorno al 55%, ma l'Italia è sesta e viene dopo la Germania che ha un cuneo del 49,8, la Francia che ha un cuneo del 49,4. Possiamo anche dire che l'Italia viene sorprendentemente prima di ben 5 punti percentuali della Svezia e della Finlandia che seguono con settima e ottava. Perché questo dato è comunque molto preoccupante? Perché il costo del lavoro tedesco è di circa 54.000 euro complessivi, quello italiano è 36.000. Cosa significa? Significa che noi abbiamo un unicum a livello mondiale, e questo è veramente un unicum a livello mondiale, nell'area OCSE, di un paese con un cuneo fiscale e contributivo estremamente alto, applicato a salari che sono già a livello di salario lordo complessivo bassi. E infatti noi passiamo dal sesto al sedicesimo posto se facciamo il calcolo in termini di costo del lavoro. Allora, un secondo punto che è collegato con questa prima analisi è quello che è per certi versi fuorviante soffermarci sul livello del cuneo in termini percentuali sul costo del lavoro. Noi dovremmo cercare di capire se il cuneo che abbiamo, quindi se l'incidenza di imposte e contributi che abbiamo sul costo del lavoro, è congrua rispetto alla ricchezza reale del paese, rispetto alla ricchezza pro capite che siamo in grado di generare. Se ci muoviamo su questo piano, ed è il tentativo che abbiamo cercato di svolgere con alcune analisi comparative come CERM, vediamo che la situazione è molto grave, molto più grave di quanto già non si inferirebbe da ciò che abbiamo detto sull'effetto negativo del cuneo su occupazione, produttività e consumi. Perché? Perché passiamo a un livello di incidenza del cuneo sul PIL pro capite di ciascun italiano e passiamo a un'indicazione che va al 64%, quindi ogni occupato italiano concorre al finanziamento, e poi dirò, ma lo ha già accennato il senatore Stradiotto con quei dati, va a finanziare principalmente pensioni e sanità, quindi una spesa che si concentra nell'età avanzata sulla popolazione non più attiva. Ebbene, abbiamo un'incidenza del 64%, questo significa che ogni occupato italiano si porta sulle spalle il 64% del PIL pro capite del paese, individuale ovviamente, per finanziare la spesa per pensioni e sanità. Oh, allora, se prendiamo questo dato, su cui bisogna perdere secondo me un po' di tempo perché si incida nella testa di chi ci ascolta, se il lavoratore medio italiano si porta sulle spalle il finanziamento fino a una quota del 64% del PIL pro capite in pensioni e sanità, abbiamo visto prima, ci ha ricordato che tutto sommato se guardiamo solo al cuneo del lavoro non siamo particolarmente in testa, anche se però è significativo che ce l'abbiamo più alto dei paesi scandinavi. Ma invece su questo, quota di finanziamento PIL pro capite in pensioni e sanità, il lavoratore medio italiano rispetto a quello degli altri paesi europei come sta, se facciamo una comparazione? Sta molto male, caro Giannino, perché abbiamo un valore di circa 63,9% attuale contro il 44% della Germania, contro il 34% del Regno Unito e contro il 56% della Francia, che devo dire non sta messa benissimo. Questo cosa significa? Significa che dobbiamo interrogarci sulle ragioni di questa disparità di posizione dell'Italia nelle due graduatorie, cioè il cuneo calcolato come incidenza percentuale sul costo del lavoro e il cuneo calcolato come incidenza percentuale sulla ricchezza reale stimata attraverso il PIL pro capite. Perché questa differenza, questo divario così forte ci dice sostanzialmente che abbiamo un livello di spesa finanziata attraverso il cuneo fiscale e contributivo che da un lato è incompatibile con la ricchezza che abbiamo generato, ma dall'altro lato rischia di essere l'ostacolo principale alla generazione di nuova ricchezza. Ora, questo valore del cuneo riflette molti fattori, riflette un fattore demografico, cioè il fatto che la popolazione attiva sta calando in termini percentuali per l'invecchiamento della popolazione, ma certamente non è un dato guidato unicamente dalla demografia, è guidato dai livelli, dai tassi di occupazione ed è guidato dalla produttività del lavoro e endogenamente dalla crescita che viene generata all'interno del paese. Quindi siamo in una situazione di trappola, di equilibrio perverso, nel quale un cuneo così elevato sta ostacolando la crescita, ma proprio perché ostacola la crescita aumenta la richiesta di tutele e aumenta la pressione per innalzare ulteriormente quel cuneo. Allora qui la vera domanda è: come usciamo da questa trappola? Non è certo nella capacità di nessuno di avere un'invenzione geniale che determini un'uscita immediata da questa situazione. Certo è che alcuni accorgimenti su questa dimensione li dobbiamo assumere rapidamente, perché purtroppo le stime che sono fatte secondo gli scenari più conservativi, quelli che vengono consegnati in sede di patto di stabilità o comunque di programmi di convergenza a livello europeo, quelli che sono stati prodotti dall'ultimo rapporto della Commissione sull'invecchiamento della popolazione europea, ci dicono che purtroppo questo valore già insostenibile del cuneo italiano sul PIL pro capite è destinato nel volgere di un decennio ad aumentare ulteriormente. Però, questo ripeto, negli scenari più ottimistici. Allora, fare i conti da una parte con quello che gli italiani hanno capito del tempo stretto con cui il governo entrato in carica ha fatto la riforma delle pensioni, e poi gli si è detto: abbiamo a questo punto il sistema previdenziale in equilibrio attuariale migliore di tutti i paesi avanzati, nessun altro paese avanzato grazie a questa riforma ha raggiunto un equilibrio comparabile al nostro, se lo sognano la Germania e la Francia. In realtà, da quello che lei ci dice, non è affatto così. Ma in realtà mi pare che sia una parte del problema, e che l'errore di fondo sia continuare a spacchettare questo problema che passa e sta all'intersezione tra mercato del lavoro, crescita, pensioni e sanità, affrontando ciascun comparto come se fosse in camera stagna rispetto agli altri. Perché se noi vediamo che una quota significativa del cuneo fiscale e contributivo è in realtà cuneo contributivo per quello che riguarda tutta la parte della spesa pensionistica, e è in realtà un carico fiscale a finanziare la sanità degli over 65 anni, e quindi è in realtà nel suo insieme un fortissimo trasferimento intergenerazionale che si fa attraverso il cuneo, cioè significa che chi lavora oggi paga per la sanità e le pensioni di chi è già anziano. Ebbene, se noi questo modello ha retto, e c'era addirittura un teorema, ne abbiamo parlato in altre circostanze anche a questa trasmissione, il teorema di Aaron, che diceva che questo accordo tra generazioni e lungo il ciclo di vita dell'individuo tiene con alcune assunzioni, se valgono alcune assunzioni, cioè se la crescita del numero dei nuovi occupati e la crescita dei salari reali attraverso gli incrementi di produttività è superiore ai tassi di interesse. Se questa condizione viene violata perché non c'è crescita, ebbene la generazione che sta pagando per la generazione anziana sostiene un doppio costo, esatto. Quello di pagare oggi per la generazione anziana e quello di veder violato quel patto, perché non ci sarà nessuno a onorare quella promessa quando lei sarà arrivata all'età anziana. Ecco, quindi, allora su questo punto io la interrompo, perché questo è ciò che salda il ragionamento, perché altrimenti sarebbe in apparente contraddizione. Cioè, come da una parte dite che è compatibile, anzi giusto e necessario, diminuire il cuneo fiscale per i giovani, dall'altra ci state spiegando che il PIL pro capite dedicato per il lavoratore medio in attività in Italia al finanziamento del welfare sanitario e previdenziale è di 23 punti superiore a quello tedesco, e dice, quindi come sarebbe possibile poi realizzare la diminuzione del cuneo? La diminuzione del cuneo serve a compensare il fatto che abbiamo oramai troppi pochi occupati, ne stiamo espellendo, e soprattutto troppi pochi occupati giovani, e ci serve anche che questa diminuzione contributiva, la parte iniziale dell'arco lavorativo, perché poi si tratta naturalmente di alzarla, sia anche in coerenza con un aumento generale della produttività, cioè deve aumentare anche la massa salariale, per essere chiari. Senza queste due componenti, riequilibrare l'eccesso di peso finanziario che c'è ancora nella componente sanitaria e previdenziale del welfare italiano diventa ancora più impossibile. Quindi le due proposte, speriamo di essere stati chiari, anche se sono ovviamente esposte con un po' di gergo tecnico, non sono affatto incompatibili, purché ci sia gente che ve le spieghi chiaramente prima delle elezioni e sappia poi farle tecnicamente. Questa è la differenza, secondo me, tra chi ha un'impostazione come quella che piace a me e le chiacchiere di cui sento parlare in giro. Io devo dare sempre un saluto agli ascoltatori della parte serale, perché poi si trova una trasmissione spesso tagliata qui e là. Si fa il possibile, ragazzi, perché nella compressione degli spazi poi talvolta avete dei salti nei tagli che non si devono alla cattiva mano di chi li fa, dei miei collaboratori, ma purtroppo al fatto che a volte sono io che rendo complicato non rispettando bene i tempi, come sto facendo oggi. Mi piace però ricordare, rispetto a, ripeto, alle percentuali di aumento della spesa pubblica realizzate dai partiti in questi 20 anni, e vi ribadisco che sulla previdenza la spesa pubblica è aumentata del 229% in 20 anni, non so se è chiaro. Per quello che riguarda gli enti sanitari locali è aumentata del 167%. Ecco, questo insieme alla spesa delle province, che però pesano molto meno di quanto sia il totale di sanità e previdenza. Queste sono le due voci di spesa che sono andate più fuori controllo. Ci sono stati interventi severi e decisi dei governi negli ultimi anni, ma siamo ancora lontanissimi da un sistema in equilibrio, lontanissimi. Cioè, noi con i nostri 15,3, 15,5, 15,7 punti di PIL spesi ancora l'anno in previdenza, non è vero che siamo in perfetto equilibrio 1-2 e che siamo in media ottima europea, perché la media europea è 3 punti sotto quasi. E non è vero nemmeno che tutto si deve al fatto che c'è solo l'assistenza dentro, a differenza di quello che avviene negli altri paesi. Il problema è che continuiamo, come vi ha ricordato il professor Pamolli, a pagare quasi 2/3 il prodotto pro capite per lavoratore medio occupato in Italia, si va in pagamento retributivo di sanità e previdenza, quindi senza alcuna logica di relazione rispetto a quello che uno ha pagato davvero. Questa percentuale è di 20 punti, più di 20 punti superiore a quella tedesca, quindi ha bisogno di essere energicamente riequilibrata per motivi demografici, ha bisogno di essere riequilibrata alimentando la crescita, cioè il numero degli occupati e la massa salariale degli occupati, con i salari di produttività. Per questo è necessario e utile pensare a una riforma che riporti equilibrio anche diminuendo il cuneo contributivo in maniera significativa per i giovani. Questa è la proposta di oggi. Sentiamo come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Maria Rosa della provincia di Milano, ma prima fatemi dire che rispetto a tutto questo le cronache politiche non ci risparmiano cose come Air Batman. Oggi lo trovate su Repubblica, pagina 22-23, l'ex capogruppo del PDL alla regione Lazio, tra ostriche, cravatte e festini alla regione Lazio va in scena la destra di casta e di governo. Questo è il titolo dell'articolo di Francesco Mero, che naturalmente picchia giù a mani unite. Però devo dire la verità, quando si legge di un presidente del PDL regione che si fa 109 bonifici sui propri conti esteri, che maneggia senza controllo 8 milioni in 2 anni, si capisce che il caso Lusi vale per tutti. Il caso Lusi della Margherita PD tesoriere, questo faceva il capogruppo sotto gli occhi di tutti, dice, si difende dicendo: ma di che si tratta, di fare mega cene e mega fine settimana a spese del contribuente? Lo facevano tutti, compresi quelli che nel PDL adesso mi vogliono cacciare. Infatti nel PDL non lo cacciano, e Renata Polverini, il presidente Lazio, dice: o lo cacciate voi o me ne vado io. Ecco, queste sono le cose a cui poi ci abitua la politica italiana, e ci dicono, quando parliamo di questi argomenti, come facciamo il professor Pamolli, che noi parliamo di cose troppo tecniche, troppo aride. Quella sarebbe poi la politica vera, che ride. Maria Rosa, dalla provincia di Milano, come la pensi? Allora, a me parte l'embolo quando sento determinate cose. Allora, io mi sento un po' castrata in Europa, nel senso, in Europa noi ci siamo per avere l'età per andare in pensione, per adeguare determinati parametri della popolazione, ma perché non fanno altrettanto a livello di Stato? Togliere 200 parlamentari non è un granché, ma non sono solo i costi dei 200 parlamentari, tutto l'indotto che c'è dietro i 200 parlamentari. Fate vedere voi che siete al governo come si fa a risparmiare e poi imponetelo agli altri, non il contrario. Mi sembra tanto, cioè, tanto poco difficile da capire. E poi abbiamo in Italia la popolazione che copia più al mondo, copia anche i cinesi, sono i napoletani. Guardiamo in giro in Europa, guardiamo in giro nel mondo, quali sono le popolazioni e gli stati che funzionano, copiamo. Abbiamo tante inventive per certe cose, ma copiamo, è così difficile. Maria Rosa, io sarei per copiare la Svizzera, però questi discorsi nostri rimbalzano con la politica che dice, che utilizza questi argomenti, di replica che noi saremmo l'antipolitica nel fare questi ragionamenti. E basta con questa storia del costo della politica, no? Come risponde ogni tanto seccato l'onorevole D'Alema o parlamentari del centrodestra, in questo sono più o meno tutti uguali. Lo so che non piace ai partiti dire che sono tutti uguali, dicono che in questo è il germe del qualunquismo, però sono tutti uguali nel fatto che poi discontinuità vere non sono in grado di vararle, perché poi in questo bisogna riconoscere che c'è un'amara verità. Le uniche due eccezioni organizzate e continuative nel tempo rispetto ai costi della politica sono rappresentate nel continuum della politica italiana, lo dico da osservatore, da una parte al Partito Radicale, che attinge tramite il servizio che dà tramite Radio Radicale, e dall'altra, negli ultimi tre anni, dal Movimento 5 Stelle, che i contributi per le elezioni amministrative, vedremo anche per le politiche, ma come fanno per le amministrative è già evidente che sarà così, come per le europee, non li prende i contributi pubblici. E queste sono le uniche eccezioni fino a questo momento che abbiamo visto. Per tutto il resto, chiacchiere e distintivo. I governi di centrodestra dall'anno scorso, negli ultimi due anni, e i tecnici hanno provato a intervenire anche sulle modifiche di stipendi, prerogative, privilegi, eccetera, della politica attraverso la retribuzione delle regioni e così via. Se vedete le riforme che sono state attuate a partire da quelle delle condizioni più scandalose, nella regione Lazio per esempio si aveva diritto a riscuotere il vitalizio dall'età di 50 anni in quanto consigliere regionale, hanno assunto interventi tutte a futura memoria, cioè che nessuno dei quali in nessuna regione interviene dalla legislatura in atto dei consiglieri regionali. Sentiamo ancora Mario da Roma, prego Mario. Buongiorno, allora prima di tutto una battuta, semplicemente un ricordo alla generazione a cui appartengo io, quella dei quarantenni che hanno visto i propri genitori magari andare in baby pensione e adesso sentono parlare di incentivi ai giovani per entrare nel lavoro, per carità condivido la necessità. La seconda cosa è, visto che si parla di cuneo fiscale e quindi indirettamente anche di reddito disponibile, io non ho mai sentito, e sicuramente sarà un'idiozia ma vorrei me lo spiegasse lei, parlare di detraibilità o deducibilità delle spese ordinarie della famiglia in modo da recuperare evasione fiscale e quell'evasione fiscale poterla trasferire direttamente senza la gestione inefficiente dello Stato alle famiglie. Una proposta da parte Mario. Francesco da Napoli, ci riesce a essere telegrafico? Telegrafico, buongiorno Giannino. Volevo chiedere una cosa, come rendere compatibile la riduzione del cuneo fiscale col livello pensionistico che già oggi in prospettiva sarà bassissimo? Chiediamolo subito a Fabio Pamolli. Allora, innanzitutto l'ascoltatore che ha sollevato il problema riferito all'insieme di detrazioni e deduzioni fiscali solleva un punto molto importante, sia perché tutta questa operazione non sarebbe possibile senza rivisitare la pletora di agevolazioni fiscali disordinate e quindi senza rimettere mano alla famosa delega fiscale. Su questo torno fra un minuto. Sull'altra domanda, il punto è quello di costruire, attraverso la decontribuzione dal primo pilastro pubblico che finanzia attualmente Previdenza e Sanità, come abbiamo visto, 50 secondi, di costruire un pilastro complementare a capitalizzazione reale, adeguatamente incentivato con detrazioni fiscali se possibile, per i nuovi entranti sul mercato del lavoro, che in questo modo si costruiscono un assegno pensionistico e un'integrazione del loro reddito nell'età anziana che li mette al sicuro dal rischio di scoperture subitanee che lo Stato si troverà ad annunciare per nuove emergenze che dovranno necessariamente emergere se non poniamo mano a questa riforma. Quindi è una polizza assicurativa in realtà che gli dà maggiori garanzie di avere una pensione e una sanità nel loro futuro piuttosto che impoverirli. E infatti questo sistema ha funzionato proprio per includere il reddito da lavoro dipendente, faccio l'esempio tedesco, in un programma che di fatto si è tradotto nel tempo nella preparazione di un rafforzamento della posizione pensionistica di questi individui, non nell'indebolimento. Va bene, allora abbiamo tentato di farvi capire come si possa e si debba pensare a una diminuzione del cuneo, ma in realtà in una logica di ripensamento dei costi e di contribuzione per tutti che restano eccessivi di sanità e previdenza. Ponetevi questa questione quando esaminerete le proposte di chi vi dice che sono il cambiamento vero alle prossime elezioni politiche. Intanto per noi appuntamento a lunedì.